ascoltando voi, quando voi. Basta mettertelo in macchina, te lo metti in macchina e via. Massimiliano Bulldo, che ormai lo sa Gigi, quella che c'era la punta troncata. Esatto, l'ho eliminata, la punta delle funzionarie l'ho fatta la stessa misura di quella che c'era più luce. Io ce l'avevo segnata, ho messo il cappuccetto, adesso non c'è più nessuno stilo, era unica. L'ho provata qua su base magnetica sopra il termosifone a 1,3, 1,4, quindi dovrei esserci, perché il termosifone non è che faccia molta massa. Sulla lamiera dovrebbe andare meglio, quindi se c'è 1,2 sono a cavallo, perfetto. È che sulla base magnetica non vengono mai bene. La massa vuole fatta con la carrozzeria. Dice che dovrà farci la carrozzeria, non posso bucare la smalto. L'altra è ferma, sta sicura più. Non posso bucarla che è doppia, è la mia doppia, capito? Tra l'interno e l'esterno ci sono 10 cm. No, non fa. E quindi, no, me l'ho già provato, l'ho pilicetto accetto sulla smalto, sull'altra base magnetica, e a sotto casa arriva bomba nuova, nessun problema, ora la 48. Questa bisogna vedere se vende, comunque, la ricezione ce l'ha, trasmette le trasmette, solo ti ripeto, qua sul termosifone c'è 1,3, un pochino più di 1,3, sicuramente in macchina ne ha molte di meno, e quindi è un capolavoro. Bella, piccolina, non è grande, poi è nera, però della macchina. Saga, e dove la metti la magnetica, dove la attacchi? Lato, la mia è nera e grigia, il nero è plastica, il grigio è ferro, sul lato, sullo sportello, sul lato, in alto, l'antenna rimane praticamente dritta, capito? Perché si piega, io volevo quella lì con la farfalla, perché piega a 45 gradi, no? Ma quello lì ti invalano di più, invece è vero che con l'altro attacco sono più forti. A me con la farfalla quando correvo si abbassava, anche se era stretta forte, mi si abbassava sempre. Già, corsi giù di vai, sono in città, non è che vado fuori, posso spostare Ottava, San Giovanni, Maglia Europea. Ma non ancora c'è la molla, che non si. Non c'è quel pericolo, lo chiamo, l'importante è che esca bene, perché stazionaria non ne ha, perché bisogna dire che c'è stazionaria, ma c'è qualcosa, stazionaria sono pochi, l'ho provata qua dentro casa, capito? Adesso io a provarla fuori, e tu non sei andato da nessuna parte. Ma stasera no, stamattina sono uscito in moto, con quelle giornate, me la sono lavata stamattina. Prima di uscire l'ho fatta bella lucida e poi sono andato a farmi un bel giro. E ti dirò che dove c'era il sole si stava bene, ma dove c'era l'ombra già un po' di freddino c'era a maniche corte. Non era una giornata stabile, ecco. A momenti mancava di colpo il sole, anche al mare era così, sono passato a Protamone era la stessa cosa. A momenti mancava il sole, c'era un parrucchietto e ce ne stava andando, infatti. E i ragazzini mi rimangono, quelli che non hanno paura di nulla, si continuano a fare i bagni, è fatto. Ma la giornata di mare è bella quando è calda, quando si sta bene. Infatti, no, anche io davanti sono uscito, ma stasera no. Passerò una giornata, una mattina devo fare un sacco di cose, sera facevo un caffè, poi sono salito e nulla, ho trovato mio collega, gli ho chiacchierato le cose, niente di particolare, sono uscito ieri, e oggi a casa, non ho sempre fatto televisione. No, io che sono andato a prendere il giornale ho avuto una brutta sorpresa, ho trovato questo qui, il produttore che era il nostro cliente, veniva ogni mattina a comprare. Lo primo era un cancellerai. Ha avuto un incidente e andando a sentito dove ci è rimasto. Quello dell'appunto è la fotografia, c'è la foto. Sì che c'è. No, io lo conoscevo molto bene, di vista naturalmente non era, però una persona che vedevo ogni giorno, capito? Quindi mi ha colpito quello. E sono andato a prendere il giornale, così posso essere saputo se c'era il mercatino dell'usato, mi sono fatto un giro lì, al mercatino, poi sono salito la mia sorella e sono passato per tre sedi da tutto usarrato, e dove sono dovuto ritornare indietro per tornare a casa. Volevo passare da lì a farmi una tirata lì, invece era tutto chiuso. E ho visto anch'io quando sono andato anche sotto per il giornale, si vede, ho visto che era ricerca delle biciclette. E vabbè, lì è un malore sicuramente, perché è delle cute di netto al cantone della scuola. E poi era rettilineo, non c'era nessuna frenata, era rettilineo, sì, sicuramente ha avuto qualche infarto, qualche cosa, perché non è possibile che in rettilineo così, almeno che non ti risponda la macchina su qualcosa, ma oddio, può sempre succedere. Un mio collega ci ha comprato una macchina nuova, l'Astra, e per poco non si ammazza, perché gli si è bloccato il bloccatetto correndo, camminando, su strada, non in città, ma su strada, camminando. Si è bloccato il bloccatetto, è andato a far affrontare la curva e si è bloccato, cazzo se riesci tu dritto. Minchia, quella è proprio, quella è una tragedia, mamma mia, quando devi fare la curva e la macchina non gira, come ti vai a girare? Infatti lui è stato pronto, l'ha tirato il freno a mano, l'ha fatta girare su se stessa la macchina, se non si sarebbe ammazzato. Ha preso, sì, si è sfasciato la macchina, tutto l'altro, però ha tutti tombe il corpo perché l'ha preso di coda, capito? Ha preso una roccia, ma comunque la Opel l'ha pagato tutto, perché la macchina era nuova, non aveva manco 2 mesi. Ma io gliel'avrei tornata, la grande. Ho fatto mettere questa macchina, arrangetevi, datemi un'altra macchina, perché io questa non voglio più. Hanno cambiato tutto il sistema, l'hanno cambiato. In più l'hanno aggiustato la carrozzeria, tutto quello che c'era da fare, però all'inizio stavano facendo storie, magari dice lì ha girato la chiave, la stava facendo andare in folle, l'ha trovato un bel disturbo. E ci ha messo l'avvocato e è riuscito a farsi pagare tutto. Perché la macchina 2 mesi era sicuramente difettosa dalla fabbrica, tanto tu vai dire lo stesso, ti risponde la macchina, ti va dritta. Oh! Che domenico tu sei? Positivo, buonasera, dai. È ben ascoltata. Domenico, mi hai sentito anche a te. E dove stai andando? A quest'ora? No, a nessun posto. Mi sto preparando il camion. L'ho acceso, però no, gente anche oggi, c'è. E anche festa fanno. Sai che Domenico è talmente affezionato al camion che ci va anche la domenica a trovarlo, se no se si distacca 5 minuti le fa male. No, non è quello, non c'è problema, è che domani mattina alle 4:30 dobbiamo partire, capito? Ci dobbiamo dormire per una settimana, allora sono venuto a metterlo a posto un pochettino. E vai, con chi niente Domenico? È positivo. Vagano. Ma non avevi che tempo a dormire in camion, ma tu già ci stai nella bandina lì, che sei corto. E l'uomo alto ha parlato, il gigante ovulino. Ascolta, non te ne portare mi dometti di cose lì, saranno anche le donne lì, no, vero Domenico? C'è problema per quella. Qua schiaccia un pulsante, fa tutto da solo. Oh, anche l'asciugacapelli? Sì, se non resisti, c'è altro che l'asciugacapelli, c'è anche la mano. La ventola che c'è qua a dormire, c'è il riscaldamento, lo vedi, la risa. Sì, che io l'ho vista per camminare, è una cosa allucinante. E poi c'è un appartamento. Sì, ma guarda, ti sento, quel letto è grande, non è piccolo. Sì, no, è due metri qualcosa, due dieci mi sembra che è 2,20. Infatti, ho messo la sacola in linea dell'82. No, ma quella già è grande, già l'ho vista. È grandissima, è un letto normale, la lunghezza è quella, quindi ci sta una persona grande, una persona tranquilla. E come mai questo spostamento con me? Ogni tanto andiamo, là, ogni tanto partiamo, adesso tocca a me, questa settimana, e vediamo, tutto qua. Facciamo a turni, ha detto, una settimana a testa. Adesso sarà 2 mesi e più che non ci salivo. Ma la stessa zona dove? Sì, normalmente Bologna, o Roma, o... E... Ma, zona di Brescia. Ah, io vabbè, già sono una zona che conosci in te. No, no, no, ma poi dove andiamo noi sono... Sono sempre i soliti posti, capito? I grandi smistamenti che delle nostre filiali e poi, capito? Campagna. Vabbè. Ogni tanto la ti fai il viaggetto. E guarda, fa anche piacere, ogni tanto una settimana non ti dà fastidio, dagli la stessa routine che di ogni giorno. E quello è vero, eh. Almeno cambia un po' la situazione. Ma dimmi una cosa, che ieri ho provato a regolare l'eco, l'ho aperto questa cosa, ho dovuto fare qualcosa, ditemi se va bene. Che prova a dire cambio. Cambio. Sembra di sì, sembra che vada bene. Però devi dire piano piano. Cambio. Io non sono abituato come grande modulatore che ha vinto. No, e la sua amplificazione ha avuto aumentare poco a poco. Cambio. Non hai coda però dell'eco, se ci avevi l'effetto elicottero non ce l'hai adesso. Ah no, prima non ne aveva niente. No, no, ma va bene, dove c'è un leggero eco, come piace a me, da. Va bene, è importante c'è leggero, no, quelli che ti ha, perché era tutto a zero, capito, l'ho alzato poco a poco, ma non sentendomi Falchetto stava dormendo, sicché non mi ha fatto solo dare delle indicazioni. Ma lascialo così che va bene. Claudio. Eccomi, sono qua. Sì, va bene, Domè. L'eco c'è, è abbastanza comprensibile. Tonalità buona, va bene così. Ma non ci sono problemi. E anch'io ce l'avevo acceso oggi. Ho fatto girare un po' sui canali alti. Se l'Italia ha segnato di Natale. Se si stinchiti, aiuto. Boh, adesso sì. L'Italia è tutto partita, non sappiamo nulla. No, ma che parliamo di europei, di europei, dai, speriamo di no, insomma, è meglio che si finisca con questa cosa, perché sennò è una schifo totale, cioè c'è gli europei, andiamo avanti gli europei, poi con i mondiali, insomma. Sono gli italiani che mi danno a vedere per buffoni, eh. Tu sorpresa che ha vinto il toccaccio, quelle partite truccate, che ha preso i soldi che non doveva prendere, tutta una storia dietro c'è, capito? Non sono cose giuste da fare, dovrebbero fare le partite tranquillamente, già si riprendono i loro soldi, cosa vuole di più? Tu immagina quei poverini che hanno giocato la schedina giusta e perché vuoi fare queste scommesse l'hanno persa. Lo so, infatti non è, è tutta una cosa ingiusta che c'è stata, è tutta per colpa loro, non è certo per colpa mia. Non le basta mai, più ne danno e più ne vogliono, ma cosa se ne fanno tutti questi soldi che non riescono manco a spenderli lui? Appunto per quello, scusate un po' che continuiamo qua. Fai dove, non c'è problema, avanti il cazzo. Come è. Mettendo a posto qua, che voi ci avete due mani o ne una sola invece? Sì, Daviani, donati una parte a questa gente terremotata che ha bisogno eccetera, di ripristinare tutto quanto. Invece grazie che non si ne va di nulla, ti dici di d'accordo, come fanno a spendere tutti questi miliardi che guadagnano? Spiegamelo. Anche facendo una vita da gradassa. A me, davanti ieri notte avevamo un questione di questo genere, capito? È una vergogna totale, è quello che penso io, proprio una vergogna totale, non esistono parole non esistono, capito? Che un giocatore che prende 80 miliardi all'anno, 80 miliardi all'anno, cazzo, abbia bisogno di fare queste cose, capito? Sia italiano sia a livello mondiale, cioè non è che tu lo mandi via dall'Italia perché ha fatto queste cose e poi può andare tranquillamente a letto a giocare, non funziona così, fuori, irradiato dal campionato a livello mondiale. Sì, intanto chi l'ha fatto una volta lo fa anche la seconda, non è che si ricapiteggia, via, di buono in mezzo. Beh, secondo me tutti i campi così, non solo nel calcio, è un po' da tutte le parti che dove ci sono soldi, capo maniera di più, fazzi, normale, nella politica, nel calcio, da tutte le parti. E quanti l'abbiamo visto? Quando c'era Di Pietro, quanto l'abbiamo visto? Mani pulite, te lo ricordi, tutti chi si è sgamato di furato. Lì c'è un discorso diverso già, perché tutto quel casino che ha sollevato Di Pietro, le mani pulite, ha danneggiato moltissimo il lavoro, quelle imprese che avevano quelle persone che davano a mangiare persone anche in nero, chiaramente non succede più. Però anche quello non si può fare, perché se ti fai male è un casino, eccetera eccetera. Loro hanno fatto tutto, che ormai tutto il sistema sbagliato, che sia nello sport, che sia nel lavoro, cioè non c'è più niente, hai capito? Non c'è più niente, ci sono errori uno dietro l'altro, non puoi tu continuare a rompere le scatole, a tassare per ingrassare le casse dello Stato, inizia a tassarti tu, togliti un po' di soldi di tasca, te ne prendi troppi. E poi ne possiamo parlare. Come fai tu a togliere 500 euro di tasse a un poveraccio che prende 1500 euro di pensione, di stipendio? Come fai? Purtroppo l'hanno fatto, no? La voglia. Anche questa mia collega, che è morto il marito, col passaggio della reversibilità, praticamente 1500 euro li hanno tolti. E pensionati, sono per la stessa cosa. Ogni mese, mia madre è dipendente statale, quando andate in pensione, c'era una buona pensione, adesso piano piano sta sempre calando. Quindi, cioè, a cosa hai lavorato 35 anni, per che cosa? Per fare che cosa? Per andare sempre a mangiare loro, quando vado. Ma la brandina che stai facendo? coglione e porta l'uomo ladro. Sì, ti prende la bandiera di verde dell'uomo ladro, quella la metta giletta, la sai come ti fa? Bianco, bianco, bianco ti fa. Perché tu sei uguale. Ti mettono un dolcino, una fetta di torta alla parte, caso poi non l'assaggi. A me potrei anche assaggiarla come, però in silenzio, credo. Tu lo dici a tutti e devi stare piano piano, capito? Piano piano. Non ho detto niente di particolare, non ho detto niente, all'occasione qua l'uomo ladro, ho detto. Non ho detto. Via, sei bravo tu, Già ti conosco, sei fedele. Già sei da bravo, ci si vede di gente che fa il tuo lavoro. Poi si lamentano che. Un po' quello che conosciamo noi quando ce ne raccontava quello napoletano qua. C'è Luigi già. C'è gente che quando vengono la Cagliari a portare il materiale da noi giù a Canica. A volte mai l'ho visto, ma ce n'è una. Poi torna la procedura e ce n'è un'altra, che sono tanti mogli di vaghi. Perché bisogna stare anche attenti, capito? Perché veramente poi capita, perché conosciamo tutti gli artisti, che questa è mia moglie, e io magari era dice imbecille, a me non mi capita, sicuramente, perché sono molto attento che tu, ma capita che c'è un po' i colleghi fuori di gavolo, ma a tua moglie, quello che mi ha pensato l'altro giorno chi era, capito? A me me ne è capitata un'altra. Una volta sono andato a questa festa di compleanno e c'era gente, cosa, questa qua che aveva fatto. E si vede che sua figlia si assomiglia, non è la mia figlia. Ma dai, tutti a me. Ehi, quello può capitare, sì. Però in questi contesti così io sarei molto attento. Mamma mia, io vengo uno, ciao. Magari lo rivedrà la prossima volta quando era migliore, cioè. È un'amica, non sai cosa dire, ciao, non stai lì, ma anche tua moglie, ma preci no. Ne ho visto anche a poco torre, se mi di da poco, la festa grande passeggiata. L'ha giù visto, una puta sei a me. Va bene così, non ho mai sgarrato, va bene così con gli altri. Non dico che sono viziosi. Poi tanto fa la catalata che ci lascia lo zampino, va a finire che ti acciappani un attimino, fai magari un giro dove pensi che non ci sia nessuno e ti trovi tua moglie davanti, cosa fai? Oh bravo, ho un disastro che mi sta sul cazzo, lui è sempre illuso per questo, la moglie la conosco, no? E un giorno lo becco a Olbia. Oh ciao, come va? Tutto bene? Ah, mia moglie, cazzo, la moglie la conoscevo già, cazzo, le ho detto quanto hai dimagrito. Oh, come mai? Oh, io sono sempre stata così. Mi gira lui, dice, non è la grassa qui, non è la bionda. Quella che mi ha presentato a Sasso, comincia a cambiare colore questo qui. Si incazza lei, lo piglia a schiaffi, ma a schiaffi mi. Vabbè, tu sei mandato mentre fuori, gliel'hai fatto apposta. Caso gliel'ho fatto apposta. È vero, la moglie è bella robustina, biondina. Ma che tu quanti con la cavalcata che tu vedi? Bella piazzata, tutto quanto, ma. E dice, ma guarda che io non ti conosco. Come non si va a moglie io? No. Siamo insieme tanti anni. Come ti siamo stati? Comunque non ti rispondo dall'altro 10 anni fa. Adesso inizia a cambiare questo colore. Inizia a prendere schiaffi. Cazzo. Fatto apposta però. Ma come ti sei sentito quando hai risposto dello schiaffi? Soddisfattissimo, ridere. Ah, quindi andava a Olbia, ci aveva la donna Olbia e la donna Sassari, così. Ma era sposata, lì c'aveva un'altra ragazza, capito? Cazzo. Doppio gioco, io conoscevo due gemelli, guarda, due gocce d'acqua, ce le presenti. E praticamente ci facevo la stessa ragazza. Se la passavo un giorno andavo uno, un giorno andavo l'altro. Gemelli loro, i maschi, capito? Andavano e si facevano la stessa tipa. Passate che... quello è proprio un vizio, Poi un giorno non so com'è stato, praticamente si dicevano le cose che erano successe il giorno prima per non tradirsi, capito? Dove se gli è sfuggita qualche cosa? La sgamata. E Olbia è la città dell'amore, vanno tutti via per cercarsi gli amanti. Froscio. Ciao Leonci. A tu a Froscio vai a Olbia. Ma detta Olbia è anche, tu hai detto è la città dell'amante. No, è anche Froscio ci sono, eh. Perché c'è Froscio, non c'è la centrale girando. A Froscio? Thank you. rientro, e c'è ancora meglio, capito? Ma cosa c'entra quello? Ho capito cosa c'entra. Cosa c'entra? Come spingere all'antenna, come se manda i raggi? Lì rientra dentro il microfono e ti fa quell'effetto lì. Vedi, io sto che a portiere chiuse, finestrini chiusi parlo, proprio per quello, se no mi fa rientro, capito? Yeah, dimmi già. Ieri notte a Portatore c'era la gara di Complessi e quello che vinceva andava a Cagliari, non so. C'erano un po' di Complessi ieri notte in piazza. Complessi o Complessi? Complessi musicali. Complessi. Quello del Margrittalo, l'hai visto il complesso che c'era? Gagine Pazia, non c'era gente. No, non ci sono sceso io qua, io lo sapevo che c'erano, ma infatti per ricominciare non è che ci scendere, il treno, lo so, sono un bel stanco, no? Infatti come ti hai toccato lì tu, rumido subito. No, ci avevo fatto una passeggiata, ci avevo fatto la porta, ci avevo fatto la bici. E lì passeggiando era uscito un casino, perché c'erano tre in piazza, ragione, c'era quello il Margrittalo, quell'altro di fronte a Fagì, che era un complesso di Natale. Perché la strada era chiusa e poi ce n'era un altro Bassetti, un casino che stavano facendo, era un altro a lungomare lì all'ex Porticciolo, al bar Porticciolo, ma il cacchio si chiamava lì, un casino che c'era, che una blu, per una blu se si chiama, bravo. Invece come hai detto tu stavano gareggiando per vedere chi era, ma quello del Bar Cristallo era enorme e ci va niente chi vede, che era Rocchettaro quello lì. L'ho visto anch'io, l'ho sentito, ero lì a Pesca e l'ho sentito. Schietto, rock, però che non ci capivo un accidente, ma detto lo faccio nel reagio. Va bene dove stavo pescando io. Vedi. E lo vedi tu? Gente, quel bar ha fatto affari dove? Un bel di gente, quello ha preso il posto di altri bar famosi, là. Insomma, la reservazione, anche ieri, no? Che c'era tanta gente, vabbè, poi c'era quelli, come si chiamano, lì si rasta, lì in piazza del comune, c'era un complesso lo stesso, grande, e poi gli altri erano dei complessini piccolini, ma c'era un casino, però gente, molta gente come prima, non è più come prima, sabato e domenica era sempre pieno di gente. In piazza del comune lì c'era il palco, dovevano suonare dei complessi, lì dovevano fare le gare, dovevano suonare dei complessi per aggiudicarsi il posto per andare a Cagliari. Oh, io vi saluto, dai. Io. Ciao, ciao, ci sentiamo domenica, buona domenica. Ma dai, fatevi buono tu, buon proseguo, buon tutto, dai. Ciao, ciao, ciao, bravo, ciao, Lucino, ciao, Doppio Roma, e a tutti gli ascoltoni. Cosiddetti guantoni. Piccioni. Piccioni. Ciao Domenico, Sarzanetto. Pioneccioni. Sono parenti di guantoni. Cugini uguali ai identici gemelli dei paraculi. Ciao Domenico, alle veloci mine, dai, che c'è un vecchio. Ci sentiamo, fate la buona, buon tutto e se già coincide ci sentiamo al telefono, mentre se sì, non c'è problema, ok, buon tutto da me, tante cose belle, avanti Sandro, buonasera, avanti Becche, invece mi ha detto Sandro, ti senti te l'hai tu già? No, negativo, è la verità, forse stavo parlando quando non ho sentito nessuno, avanti chi ha precato. Poi mio Domenico, l'ho sentito il break, quando stava salutando Domenico, mi sembrava Sandro Trighe. No, niente, non ho sentito. Cazzo, l'altro giorno ho visto questo furgone con questa antenna, questa buona gara, guardo, e mi vedo a Sandro. Sì, tu a Sandro, il furgone si abbiglia. Beh, ci voleva, lui aveva la necessità di stare col furgone, perché carica la merce, più tranquillo, ho capito tutto, non voglio stare con la macchina, vai e vieni, scarica, quello lo tiene sempre pronto e in partenza. uscire. Ma sei sci? E dove vado? Dove vado? Dove vuoi vada? Se com'è quello là? Dove vai? Se esci non ce ne sono, è caro Gianni. Oi oi, quando al 15 a ritirare, oi oi oi. Ma dove vai se i soldi non ce li ha chi? Per forse quindi ti dici. Se vai a fare un giro a vedere se complici, cos'è, non devi spendere nulla. Vabbè, però già, sai che il discorso che è questo, che se scendi un posto, almeno qualcosa la devi avere, hai capito già. Ah, ti puoi prendere, come ti dico, una cattata, una lanciata. A meno quella te la puoi anche bene, capito? Sì, a me. Ma va a pigliarsi un gelato? No, lascia stare quel cassetto. Niente. Uno se si accontenta con le... Sì, vabbè, comunque, adesso... Vediamo, dai, già scenderà questo cavolo di sole. Una volta che mia madre va via, va a casa di mia zia, che va a uscire, mi apre tutte le porte, almeno circola l'aria, hai capito? Ma c'è la libertà, trova, va via, la vado a trovare la libertà. Vai Claudio! Io non credo che sia contento con la mia mamma, però... che a volte devi seguire le direttive, hai capito già, e quindi... Va bene così. Ma ragione Gianni, Giuseppe, non è che bisogna... Non è che io o Gianni, so che abbiamo lo stipendio, lo dire in tasca, ogni volta che esci, ti devi venire a comprare a fare. Esci giusto per uscire da casa, per fare una passeggiatina. Basta. Io sono uscito ieri, ma eravamo già organizzati, siamo andati a mangiare tutti assieme una pizza, ma eravamo più della decina, quindi io c'è voluto 15 euro a testa a coppia e hai passato una serata, va bene, te lo dico, se uno esce singolarmente così che va a farsi un giro, non è che vuole per forza spendere la chiusa, anche quello è vero, giusto per uscire, c'è caldo, adesso, che ne sono 8 meno un quarto, ti mangi una frutta, dividi un panino, imbottito a casa e poi prendi e esci e va fatto un giretto, alle 10:30 te ne rientri, sei già pronto per andartene a letto, è lì quello che ti voleva dire Gianni, quando c'è questa monotonia si fa, capito? Sai che stasera c'era mio figlio, ma ieri non c'era, ce ne siamo usciti come oggi, se no mettere il dopo di stasera, ma giusto per fare due passi, per ammazzare un po' la serata. Con un euro e 50 poi Giuseppe ti compri un cornetto, ti mangi il gelato e ti fa la passeggiata. Vabbè, adesso vado un po', non lo so, perché tutto dipende se qualcuna, hai capito, me li lascia, allora posso, hai capito, giostrare, di farmi qualche uscita, hai capito, se mi lascia i soldi dopo le 8:15 si può anche uscire, hai capito, però prima dopo non lo so, vediamo un po' là, adesso ci continuiamo a vederci la partita. Magari, e lascio un consiglio Giuseppe, poi vedi tu. Andave. Claudio se la riprenda. Cappa di Rosmetto. Ehi Giuseppe. Dite dove avremo noi me. Perché tu. Ah, è bello stasera, perché c'è un po' di maestralotto. Si sta bene anche al fresco, più fuori segno, poi c'è. A fare una cosettina. Che ti hai tolto? Me l'ho tolto, perché non tolto la fascia adesso. Ma non puoi mangiare, mamma mia. Mi sto togliendo la sera i due cose già. Mi erano fastidio allucinante. Arbenda? Sì, la fascia. Quanto la sabbindroni mi braccio? mettiti qualche cosa che te lo tenga, perché sennò al collo, una fascia al collo che ti tenga anche il braccio. Sennò è come se non ce l'avessi mai avuto, se te la togli, che devi rifarti la fascia al braccio. Si può sganciare questo, già c'è i due braccioli che entrano dentro e la faccia al collo, capito? La striscia dietro praticamente è fatta X, normale, come metti una faccia, non la sono fatta fare così perché ho fatto le mani con la guardia, capito? Ma io vabbè, no, non ce l'ho un pezzone in braccio, ce l'ho appoggiato alla pancia così. Ma l'hai fatta, Cla? Questa me l'hanno fatta il 9, sabato mattina, sempre in ortopedia, me l'hanno cambiata, l'altra era più rigida, questa invece si può togliere. Ah, te l'hanno fatta loro, non te l'ho dovuto comprare, ma me l'hanno detto, ce l'avevo il dottore, che poi si può rimborsare, e gli ho detto, no, spendo io tutti i soldi, poi me l'hanno tutti, mi faccio tutta la facciatura, che posso almeno toglierla per lavarmi, dicevo che la facciamo così, a tipo bretelle, fammela tipo bretelle. Infatti così è tipo bretella questa, capito? Non ci sono i due fori che entrano dentro il braccio per mantenerlo, uno nel gomito e uno proprio prima della mano, va, e mantiene tutto bloccato. Questa è di poco, intanto, tutto, 150 euro l'avevo pagato per il ginocchio, fatelo conto, e non me ne hanno mai rimborsato, il fatto è questo, non è rimborsabile, non è come ti hanno detto loro, non è rimborsabile, è un cavolo, perché quando io l'ho chiesto a Mura, quel dottore, diciamo, se chiamarlo dottore non lo so, quello che c'è all'infortunio sul lavoro, che praticamente mi ha aggravato la situazione facendomi una mossa strategica, come l'ha chiamata lui. E quello lì mi ha detto che per rimborsarla dovevo essere, praticamente dovevo avere un'invalidità permanente. Ho detto la maglia, un'invalidità di varia. Ecco, su 10, sì. Eccolo, avanti. Scappa, buonasera circolari, sul canale 10, sì. Scappa, gappa, ciao Sandro, ben sentito, cordialità, avanti Claudio. Allora, ti ho detto come ho fatto, ho rilanciato, sì, palito, ciao, sono di buonasera, ben ascoltato. Ma poi già ti voglio chiedere perché, adesso rilancio il Giuseppe, poi ti voglio chiedere una cosa, perché voglio comprendere perché devo andare il 22 io. Avanti Giuseppe, per Sandro. Via, ciao Sandrina, buonasera. Ciao, ciao Giuseppe, ciao Claudio, buonasera. Ben ascoltati, dai. Oh Sandro, ben sentito anche a te. Cos'è che mi devi chiedere qua? Io già, una volta poi finisco, allora io ho sino al 22 compreso, il 23 era dalla visita del controllo, ma devo andare dove lì in via Mendola, al coso del lavoro, lì alla, come si chiama, lì Inain, così è. Penso di sì, almeno che voi abbiate qualche altra convenzione, non lo so. Però l'infortunio sul lavoro normalmente è lì dove ci sono le scalinate, via Mendola, praticamente visto dove ci sono i parcheggi, giri, e all'inizio di via Mendola rimane salendo sulla sinistra. Cioè sportissimo Claudio, sportissimo, negozio di sportissimo. Veramente sportissimo, non confondere le idee prima. È proprio allora praticamente il semaforo di via Mendola, quello che divide tra via Italia e via Mendola, c'era presente subito dopo il semaforo sulla sinistra, non c'era sbagliato. Ah, ho capito, sì. C'è l'ingresso dalla parte dell'ex stanno, della Queen, e poi l'altro ingresso è dall'altra parte, non via Mendola, all'inizio di via Mendola, 10 metri, quei 20 metri, ho capito, proprio all'inizio, subito dopo il semaforo, perché io mi ricordo che è quello lì l'infortunio del lavoro, capito, e sono andato da poco a portare lì i documenti per l'accredito dell'infortunio di due miei colleghi che erano infortunio, sono andato io a portarli, i codice IVA, tutta la cosa. qui nell'altra parte, dove ci sono le scalinate. Occhio se ti visita con il dottor Mura, che non ti porti a borse strane, perché quello per vedere se ti fa male veramente ti fa borse. Se ne dimmo su dove, quindi un pugno a capo a testa. Sono in fatti, senza non oggi. Avanti, Giuseppe. Via. Sì, va bene. E l'importanza che non ci sia nulla di preoccupante per quella questione di Claudio, e poi per i soldi mai ci vengano, è capito? L'importante è che lui non abbia niente, perché sennò quel dolore lì se lo sopporta per quanto, per tutta la vita, vedrai, perché come cambiano i tempi ne resisti parecchio. E Giuseppe, quello che è vero, perché mi ha detto anche molto critico, mi ha detto troppo, si tocca la testa che lei possa fare movimenti bruschi, fatto detto, ma è molto possibile, dottore, è molto può andare. È molto può andare, ma piano piano, e capita un momento bruschi, ma esce di nuovo, l'osso fuori. E poi, come stai dicendo tu, mi ha detto, e tra l'altro i cambi di temperatura, ne risentirà, avrà sempre. Sarà amico degli antidolorifici, e io gli dico, lasciamela a dire, ma non ho mai fatto niente di sciolti, ma gliel'hai visto come il braccio, Giuseppe, mi ha tolto la fascia lì, oggi di tu, perché è tutto unito, ma sto mettendo pomata tre volte al giorno, non si assorbe la matoma, cioè me ne avevi fatto comprare una tu, quella lì è buona, no? Lì 8.000 ti ho detto di prendere, quello te lo fa assorbire. Mica la mattoma che c'avevo io non la vai. La dottoressa che mi ha visitato mi ha detto, ma io la ricovero subito, non ho mai visto i mattoni così grossi. In tanti anni di servizio non ho mai visto una mattoma così grande. Le 8.000, porca puttana, domani mattina l'ho preso un'altra, non serve a niente, ma che gamba che. Lì 8.000. Lì otto mille, ora mi ricrivo così. Consultare per un medico. Se la pomata è per assorbimento di ematomi, non è che possano avere effetti collaterali o dove. Comunque chiedere al medico classe non sei qualche perplessità, chiedi. Vado a casa. Limo, fatto l'hai. Limo? Limo. Non è pari. Lo paghi? Non è cattivo. Perché ho versato troppi contributi e non ne devo pagare. Adesso io domani c'ho l'appuntamento alle 10:10 alla CGL e mi fanno tutto quanto. Fatto che è stata a casa dove siamo noi, è andata per mio nipote, dunque doveva esserci mio nipote, però glielo stiamo facendo noi, perché non c'è lui, è fuori, no, e dunque non può venire a fare questa cosa qua. Ho capito. Vabbè, Giuseppe, se la dovete pagare, tutto non sarà una cosa molto grossa, eh. Quanti metri quadri era a casa? 70. E pago una cazzata, io pago una cazzata, non paghi molto, sulle peso 60 euro cosa non fa così. Vabbè, che sarebbe il vecchio modello ICI, quella roba lì, no? Però io pagavo, quando mi ricordo io pagavo, ogni cosa ho pagato 110 euro. E di meno ICI si paga adesso, si paga di meno di prima. Adesso vediamo domani come vado a fare quei documenti, il porto l'atto e tutto quanto, vediamo cosa mi dicono. E poi il 21 c'ho per fare il modello del RED, hai capito? Del RED, della reddita, quella cosa là, hai capito? RED. RED che cazzo sta? Sì. E vabbè, comunque, il casino è, sempre soldi dobbiamo dare, sempre soldi, più non ne hai e più ne dobbiamo. E allora poco gli interessa, non interessa nulla. Gli unici che non ne pagano lì, sono quelli del terremoto, che può fare, ci non vale più un caso, già paga. Certo, il coraggio loro ci vuole già far pagare lì c'è quella gente, ma stai scherzando, per carità, sarebbe stato veramente il colmo dei colmi, che il colmo che dove le hanno accordato dei crediti di 300.000 euro, è capito? E la gente ha detto, dice, prima delle banche ci sono le persone da sistemare, perché siamo senza lavoro. E hanno tutto quanto a carta sfascia, tutto quanto sta fallendo. Poi è una cosa adesso che a livello europeo fa, diciamo, una nazione usufruisce anche sull'altra, e andrà tutto a catena, un casino, sta succedendo un casino nero, guarda, non te ne immagini manco tutto quello che sta succedendo. Io lo so, quasi qua. Faccio una cosa, vado in questura, mi faccio fare il passaporto, e me ne vado pure a lavorare dove c'è mio cognato, se no qua, se cerco lavoro qua, io le dico di mettermi in corsi e fammi trovare un lavoro lì, e imparo la lingua, l'inglese, però almeno io il lavoro ce l'ho io lì, hai capito? Sperando che riesca a mettermi in mezzo in quel ristorante. E magari c'è qualcuno che parla anche l'italiano, va. Solo che lì devi sapere destreggiarti, perché se tu vai a servire un cliente e ti chiede una cosa non la capisci, che cosa va. Fai brutte figure, non mi piace invece sapere l'inglese, è meglio, perché almeno secondo cosa ti dicono capisci e porti i piatti, capito? Può fare anche lavapiatti, a me mi va bene lo stesso, tanto se da un letto già la riesco a bussare alla casa della mia sorella, capito? Oh, Giuseppe. Mica. Ma che problema vai di riso? Che problema vai? Quando gli andi un bel capelli e dopo avete tutte le lingue. A me, mi porto pure a lui, a me no, lo faccio diventare come era prima, la pasta tipo Massimo. Tu hai già la papiatti, quindi è pratico, che problema è? Ma quando fate tre lingue parla, tutte in uno, non è altro che, non ci comprendo la matta già quando va vedda, anche da Rusongo, quando aveva i merilonghi, una volta ci aveva tirato a me la bicicletta, come aveva qualche sfricciolo che ha detto tipo che rubiera la bicicletta se non cammina. Ci ha tagliato con i capelli, Giuseppe, non hai visto che aveva i capelli di nuovo corti, bello pulito, cioè, sembra un'altra persona, è che te ne cogia la voce, se no io il primo giorno che l'ho visto non sapevo che era lui. E perché quando l'ha mandato Nico a Cittamercato, cosa gli ha detto? Nico, ma dai un euro per la benzina, se no non ci arrivo. Un break. Avanti, il break con la buonasera, eh. Break, buonasera a tutti, buona domenica. Buona domenica anche a te, con chi abbiamo l'onore di parlare? Di Beppe Andria. Beppe Andria, ben sentito, vai. Doppio room in compagnia di Giuseppe e di Claudio, avanti. Buonasera Claudio, buonasera Giuseppe, buonasera dottor Rum, buonasera a tutti. Ciao Gianlu, buonasera per sentita. E anche Sandro, è andato via Sandro già. Appaga, ma non l'ho riconosciuto mia Gianluca, Sandro c'è pure, avanti Sandro. Manco mai che qualcuno mi ricorda ogni tanto. Buonasera, ciao Gianlu, voi che fine mi state facendo fare, raga. Ciao Sandro, anche a te. Ero in macchina, vi stavo ascoltando, ma c'avevo troppo QRL. Allora, questa giornata di caldo, come l'avevamo passata oggi? Al fresco, al mare, o col ventilatore in casa, riposando? Io mi sono venuto a farmi un giro in moto, infatti ti ho fatto un colpo di telefono per vedere se uscivi in moto, andavamo a farci un giro. Invece non mi ha risposto, invece stavi lavorando. No, c'è la cosa in macchina, ma ero dentro un attimino un negozio, no? Infatti dopo ti ho richiamato. Ma te l'hai trovata la chiamata? Ma non ci ho fatto caso, perché poi subito dopo ho preso la moto e sono uscito, probabilmente c'avevo il vostro sotto la sella e l'avevo sentito, capito? Ecco, avanti Claudia. Allora smetto, ciao Gianlu. Io mi sono allontanato, ma pensavo avessi ti allontanato anche tu, sai, sono che avevo lanciato la prima, non c'è problema. E come l'abbiamo passata? Io stamattina sono sceso da Gigi a fare una commissione. 10 minuti e poi a casa. E allora c'è un tragico, io mi sposato, mi ho guardato la partita e sono qua in attesa che mi chiamano per la cena, perché sinceramente stasera c'ho fame. E dopo se c'è qualcuno altro vedo di radio e poi a nonna e domani si rinizia tutto qua. Comunque le giornate perlomeno tra ieri e oggi di pomeriggio, di sera ci sta bene, perché entra questo maestro Lotto e non ti dico che non è, non dispiace. Sì, è vero, c'è un po' di aria, stava bene anche in piazza, faccio un giro, mi stavo passando, si stava bene. Speriamo, dai, che non sia invece qualche preannuncio di qualche polmi fuoco, uscire a casa del gatto. Avanti Sandra. Oggi dimmi Gianni, tu mi stai cercando? Io sono andato al mercatino stamattina, c'è il mercatino, ma con quei giocare i dischi. Che ci sono i dischi? Riesci a durare? 24 euro, cosa ne dimenticando erano i nomi? Infatti guardi le mani sempre un chili. Io non è che faccio un libro, vabbè, per la spedizione, ma sì sì, si faccio un acquisto, mi compareggio il zinco 6, mi rimuovo di là, mi compareggio il zinco 6, la spedizione è pagata. Vabbè, no, no, no, no, no. Troppo caro di vendere, se no sono belli, perché c'è De André, c'aveva tanti dischi belli, la CDC e altri che ho visto, molto belli, però costano un bel. Sono anche abbastanza messi bene, là. Ma a chi interessa un jukebox compreso di 100 dischi funzionante negli anni 60? Quello è bello, infatti c'erano tutti i dischi dentro serie limitata. Funzionante, funzionante, lode pacca, raga. Ragazzi, la fa. No, ce l'ha su a Genova, me l'hanno chiesto se trovo qualcuno che lì, qualche appassionato che potrebbe interessarle, darle. Non lo sa, appassionato già si potrebbe trovare, se non avessi disposto a sganciare. Quello è, quello è il problema, la chizocca, Già me l'hanno detto qualche prezzo, ma addirittura c'è un collega mio, avrà una cinquantina di radio, tutta diversa dall'altra, quelle gelose, a valvole, sai, quelle grundi che facevano a volta. E poi c'è anche questo jukebox che era del cinema, lo bugnano in cinema, lo seguono lì in Rubese e Azul, lo stavano, dovevano rimodernare, ho detto mi serve qualcuno che porti via questa roba perché mi va a fare lavori, che cosi, subito subito, si è accarrato tutto, si è appoggiato tutto. Lo so, vabbè, quelle lì sono cose, diciamo che possono andar bene, diciamo, a un appassionato, proprio a un vero appassionato, perché mi ha inviato l'email proprio dalla foto, guarda, è nuovo, si può dire nuovo, solo che è costicchia. Costano vero, sta? Più di 2000? 2000? Se 2000 non compare di nulla. Tu due o 5? Ci lascio poco, mamma mia, oh, il povero appassionato a me già mi era piaciuto, ma chi se ne ha, sto parlando finanziaria. Esatto, bisogna fare una finanziaria lì, se non è che proprio trovi l'accanito così via, qualche locale proprio particolare che allora se lo vuole fare un investimento, perché lì sono un investimento, va bene, ok, dai, mi lascio. Continuare con le cose, rimango nascosto da parte mia, dai, che devo, io non ho già ancora visto, dai riprendi, grazie, grazie. Ah, a proposito, c'è lui, con motivazione allora. Poi ci sentiamo dopo se hai tempo, dai. Gianluca, vabbè, provatela con la cosa che ti è arrivata. Sì, sì, tutto il meccanismo pulito, era un pochettino sporco, mi. Le carte devo fare, perché hanno preso un po' l'umidità, e quel bruciolato lì, maledetto, si gonfia. Avevo già i legni, tutto quanto, mi, della volta quando dovevo fare della prima volta, capito? Mi sono ritrovati tutti, adesso devo piano piano pulire e incollare, avvitarle con le viti. Sono i pezzi, vabbè, pezzi che sono andati male. Ah, comunque, se va bene, li hai provati, tutti ti scrivono sull'altro. No, quello lì non ce l'aveva, me l'aveva detto, non ce l'aveva, me lo deve portare un amico mio che c'era in cantina. Forse dice che c'aveva anche il giradischio e mi porta tutto quanto, dai. Vabbè, se, magari anche funziona, mi ho pezzi di ricambio per questo. Va bene, allora, no problem. Vabbè, ragazzi, io rimango in crisi, vado a prepararmi una bella insalata e ci sentiamo dopo, se considera. Ehi, Giuseppe, va bene, buon appetito allora. Salut. Dobbiamo fare un lavoretto lì al furgone, alla paraurti davanti. Via, guarda che domani sono libero. Devo scendere, so che mi hai detto quella cosa lì, devo scendere giù in comune. Dai, ci sentiamo mattinata per il caffè, infatti mi alzo presto. Io verso le 9:09, vabbè, io prima esco che vado a fare la camminata, no, col cane. E dopo verso le 9 siamo già pronto. No, non è questione di domani, Gianluca. Persone che dovevo farlo già dalla settimana scorsa, però purtroppo si sono accavallato di gozzi. Sì, no, ma per vedere di cosa si tratta, in modo che uno c'ha già un po' di un'idea. Adesso così com'è, adesso magari non so di cosa, se me lo vuoi dire tu cosa è. No, i paraurti davanti, hai visto che è tutto scolorito. Quando paraurti per me sono urti di davanti. Però lì cos'è, bianco era? Grigio. Ho capito. Devo vedere cosa c'è sotto, però se è in tinta, se c'è, sta sbucciando. No, non è sbucciato, è scolorito, ho capito, scolorito, noi a parte dei graffi o così via. Allora che panna si mette, quella è la specie di prodotto che si usava prima delle panda, le parrucche delle prime panda, ti ricordi? Serviva per ravvivare le parti che sono cotte dal sole, sbiadite. Diciamo passati come cosa, ma già c'è un prodotto anche, ce n'è quello equivalente che fa la scuola funzione lì. Salù, io volevo fare bianco come la carrozzeria, però non so fino a che punto ne posso valere. Ecco, allora si parla, allora bisogna cancellare quel discorso e deve partire davvero con un altro discorso. Poi da lì bisogna vedere di cosa è fatto il materiale, che plastica è. Le plastiche ci sono gli aggrappanti, vuole tutto quanto bello pulito, levigato, via dicendo, ho messo questa aggrappante e dopo l'aggrappante si può fare il discorso della verniciatura. Siccome è bianco lì basta prendere un bianco che si avvicina a quello della carrozzeria, se non c'è il numero, e si fa direttamente in tinta acrilica, un bianco normale, bianco già catalizzato, capito? È un problema lo stesso, si fa veloce. Ehi, cavola, lo voglio fare, siccome tutta la carrozzeria è bianca, voglio fare il paraurti davanti bianco, poi il paraurti dietro bianco, insomma, lo voglio fare un po' personalizzato, vai. Allora, tu dopo le metti le scritte, capito? No, piano con le scritte, ragazzi, ci deve pagare ancora tasse per i scritti. Se vedo che chiedi si paga la pubblicità, si può tenere paga in barra di livelli. Va bene, dai. Non c'è problema, me lo vediamo di cosa si tratta e dopo vediamo cosa hanno voluto i materiali che ci sono. Avanti qua. Come glielo ho detto, non conviene pellicciarlo in bianco, capito? E poi quando lava delle buone aggrappanti, no? Cioè, quei gozzi e ti si smuccia tutto. Ti conviene darle quelle ravvivante per paraurti che lo vendono. Fare bianchi come la macchina, hai capito? Ma lui che c'è la grappante è nero, ma lì il coso, come si chiama, il prodotto, ce l'ho passato anche io nella 127 eccetera eccetera, e lo faceva proprio bello nero lo faceva il paraurti, bello, è una pittura, una vernice, si attacca come la vernice. Ciao Giuseppe, ciao, buona cena, buona insalatona. Sì, c'è sempre il rischio che salti fuori, o no? Sì, col bianco, no, se fai le cose meglio di essere fatte, aggrappando, se ci va il fondo, ci vanno, se è spaccato che ci sono dei grafi profondi, ci vuole il succo per la plastica, insomma, dopo vi bisogna vedere fin quanto ne vale la pena, magari, per il materiale, non per altro, Da voi va a pagare più il materiale di un paraurti completo. Hai visto che sono così gente? Se non si accontenta, magari con un po' con un aggrappante, dopo un po' di vernice acrilica bianca, si dà una spruzzata, con 200 grammi, 300 grammi lo fai, Vabbè, adesso mi dici tu Gianluca, come farlo? Se ci vuole aggrappante ci vuole sicuramente. Per forza ci vuole, l'aggrappante ci vogliono su tutti i materiali che non sono di carrozzeria, se vuoi vernice d'alluminio ci vuole l'aggrappante per l'alluminio, per la resina anche un'altra cosa ancora, insomma, tutti i prodotti oggi non è più come prima, oggi hanno fatto più i prodotti, ci sono specifici, si chiamano, ci sono specifici per ogni tipo di materiale, si è pronto, la campanella zone noga, una traviesa. Ok, dai, allora, dai, vado a fare 10 minuti di carico anche io, una cosa leggera, riprendo subito ragazzi, dai, dovete andare a cenare anche voi, buona cena, buon carico, e io già sono qua dopo, ok? Hai ragione, dai, che io ne approfitto, dai, mangio qualche cosa anch'io, e poi al limite sentiamo dopo il radio, dai. Ok, ciao a tutti, dai, faccio correte anche io, causa carico, e poi magari ci sentiamo più tardi. Buona cena a tutti, dai. Allora, dai, ci sentiamo dopo, se coincide, buona cena a tutti, ciao ciao. Ciao ciao, buona cena. Tutti forti, tutti, dite che ti devi un po' scaldare le gambe, se no, no. Ciao Lucia, mi ha fatto un guatto, ha vinto la Germania, Polonia, e forti ciò. Bisogna che ci rimboccano le maniche, bene, e giochino per Roma. Lo so, adesso lo possono, vengono le squadre più consistenti, e lì devi far vedere più la, diciamo, la professionalità, la bravura della squadra. Sì, va bene. La bocca che mi hanno chiamato, che siamo quasi a Damata. Se qui ci da più tardi. Piazza, sentiamo dopo, Anch'io sono qua in attesa. Sentiamo dopo se coincide. Ciao, buonasera. Voce di bambini sempre. c'è la finestra aperta, ci sono la pizzeria giù. Faccio un conto amici, lì c'è la... Sto sentendo i bambini che ci sono qua, capito? Già sì, già sono andato in quella pizzeria a mangiare pizza al metro. No, già, no, no, che la pizzeria è agriturismo. Ah, vabbè, magari adesso hanno cambiato gestione, ma prima facevano la pizza al metro lì. Un bel tempo fa. Ehi. Ma già stesso, il computer ci vengo qualche cosa. Atteso, il computer. Ehi. Andateci a vedere quello che fa le antenne, Gianlu. Queste roba di antenne dice che vanno un bel bene. Fa le antenne per macchine, per camion, eccetera, eccetera. Un siciliano. Metti... Ah no, adesso non mi ricordo come metti in siciliano. Allora metti antenne scoiato. Sì, sì, aspetta, aspetta, perché adesso allora va. Mi collego subito. Prendo questa TV e contanti stanno parlando al barattino. Sto sostituendo tutti i cavetti di un alimentatore per il computer. Mi sto mettendo più sui grossi. Appaga. Un amplificatore, dai, ho rimesso un po' di disturbi. pagare. Da questa frase. Quale? Ascolta, ma te l'ho tu prima su Google e dopo? Allora, lo cerchi su Google. Praticamente metti antenne, te l'ho detto, scoiattolo. La frase che ha detto il Papa Buono, la grandezza di una persona si misura dall'umiltà che ha nel suo cuore. Dunque poi ti fa vedere già delle cose? No, basta che lo cerchi lì poi, cioè anche se entri su Facebook è lo stesso, anche da Facebook puoi entrare. Io lo sto registrando così che... Facebook? Ma non ci sono. Tu mettilo su Google allora, fa vedere a tutti anche se non si registra. C'è abitura, ne manca, di Facebook. Provi. Ma così mi paga. Perché? Anche questo è bello. Le donne bisogna farle ridere, ma se ti riesce solo da nudo non è un buon segno. Perché le donne? Bisogna farle ridere, ma se ti riesce solo da nudo non è un buon segno. A chi deve facere si può fumare, là. E scrivono poche cose. A letto sono incredibile, posso dormire per ore. Ma è già molto. Sto controllando che sto passando l'audio nell'altro coso, adesso devo spegnere il computer. Non avevo dimenticato, ho toccato la chiave a tutti. Dice il saggio, se qualcuno ti fa labiale, tu mandalo gentilmente a cagare, e se ti sembra parlare col muro, mandalo pure a San. Cinese, sente cinese. E gli aggiungi ciao. Capito Gianluca, questo tu non lo sapevi. Le gomme gettate, che sarebbero le cingomme, gettate in terra, appaiono come pane agli uccelli che quindi provano a mangiarle. Queste distruiscono il loro sistema ed impediscono di nutrirsi di qualsiasi nutrimento o acqua, per poi morire lentamente. Eia. Gli uccelli vengono fregati perché gli sembra pane, perché sono bianche, capito? Beh, bene va quello lì, Gianlu. Bene va quello? Perché ha messo a posto. No, devo modificare domani. Io perché devo fare le fune nella carcassa. Capito, devo fare le fune nella carcassa. Pulina. La mia roba, ma la vado a dare tu di. Perché non ce l'ha Gianlu? Non ce l'ha la ventola in terra. Mettatori portatili che si mettono già che vanno sia a 220 e qui c'hanno anche la cosa per l'accendisigari. Ah no, io stavo parlando dell'altra parecchia. La deve vedere. Ah no, quello lì è il quello. Te l'ho detto, ti ho già tutto, no? Devo un attimino smontare, che devo fare una modifica al quadro di dietro, dove c'è lì l'attacco dello spinotto, è leggermente più grande, quindi lo devo leggermente sagomare per farlo entrare. Ma la devi verniciare? Ho verniciato, ho già fatto tutto. Devo solamente fare questo lavoro qui e lucidare il vetrino. Il meter e l'altro un pochettino più distante dove sono i numeri. Devo il prodotto. E appunto. Andava. Dopo del resto è tutto a posto perché l'avevo già verniciato, ho fatto come carrozzeria. Col fondo. Ma guarda, è trovatela. Sì, un colore che si avvicinava tantissimo. Vabbè, interessante che sia più o meno uguale. Sì, era quasi uguale, guarda. Già va bene. Ok. Cintura. Ma la visione è una cintura. Se ha fatto fare la tua compare proprio preciso non si riuscita. Il tuo compare te non ce l'hai fatta a fartelo fare uguale. E chi mi sono andato? Ah, capito, Robertino. E io infine? Robertino. Vabbè, allora. C'è il tintometro, dovrebbe uscire preciso o no? Col tintometro non dovrebbe uscire perfetto. Ma siccome non è che il cazzo questo la faccia del numero, mi dice la formula e ti fa il colore preciso. Ma cosa ridi tu? Ma che... Anche chi c'è vero. Capisci? Tu devi andare a occhiometro. L'occhio, l'occhio, l'occhio, occhio di bue. E c'hanno quelle... diciamo quelle... quei provini in plastica che ti avvicinano e... magari riescono mille a fare il colore. Data sulla carrozzeria da una tonalità, la stessa vernice la metti sul parafango, sul paraurti che magari di plastica e cambia di tonalità, capito? Molte volte quello che c'è sotto ti cambia il colore, sembra che invece il colore è uguale. Che macchina che c'è paraurti che non sembrano lo stesso, invece il colore è uguale, ma l'ha dato appena appena di un'altra tonalità. Specialmente succede anche se carichi tanto, se carichi alteri il colore, quindi bisogna sapere dosare anche la vernice, quanta ce ne vuole e come spruzzarlo. Beh, certo che sì, bisogna, è un'arte, è tutto un'arte. Che questa mi ha fatto ridere tutto. C'è una panda tutta ciaccurata e ci ha messo il cartello, il padrone, ci ha scritto: prima di ridere della mia auto, finite di pagare le rate della vostra. C'è Pietro, è scoiato. No. Deva sì che... Deva sì che si era accucciato di vedere gli interpretanti della macchina. E la butta giù un cartello da lì. Ma stai più entrando più già l'Uber? Come ti già? Stai più entrando su internet? Su internet? Te l'ho resettato. Adesso lo accendo già. Ha formattato tutto? Ah? Formattato? No, ho formattato. Avevo attaccato la prolunga dell'impianto USB. Per far funzionare la musica, non l'impianto. E automaticamente si è ridisolito queste delle casse che ci sono qui, no? Ti ho detto parlare. Adesso l'ho staccato, la prolunga e lo devo riaccendere e si rimette in funzione l'audio suo. Ma tu guarda questa storia. Discriminata perché è ricoperta da peli perfino dalla madre, perché l'ha abbandonata. Allucinante. Una bambina di 8 anni che ha il corpo al 60% coperto di peli. Cioè se ne sono presi cura perché è stata abbandonata da tutti quella lì. Perché ci sono dei casi nella vita e la gente è crudele. Si rimette sul letto, la ragazza e il ragazzo. E vabbè, ci sono scritte le solite frasi d'amore e cose. La notte, sai cosa succede? Che si accende la parte da Biadorraio l'altra notte. Si accende questa affare e fa je t'aime, una cosa del genere. I love you, una cosa del genere, dice, poi c'è in inglese, I love you. Cazzo, si è preso un raio, è venuto e mi ha detto: papà, ce l'hai un martello per spaccare questo affare, perché sennò di notte mi... Ce n'è di tutto e di più, guarda. La tecnologia cosa fa? Ma... lo so. Però molte volte disturba anche. Nel caso di mia figlia, l'ha svegliata di notte e si è svegliata adesso pensato e si è anche spaventata. Detto. Allora, nessuno sa quanta benzina destinano a quindi sa, hai fatto l'impianto in macchina, io l'altro giorno ti stavo riconoscendo, ho detto chissà chi è questo qua con l'antenna, guardato, e poi mi sta terrorizzando. Lassù giusto così per compagnia, ma compagnia non più di tanto perché cazzo è un vero, ma zero davvero, non c'è nessuno, solo i camionisti e basta. Bene, se ti prendo le vie abbastanza. anche Gianluca, Gianluca. Sì, sono qua, io lì. Ecco qua. Faccio un poco di filo, l'ha già avuto. Andiamo via. Niente, c'è Gianlu, ho mangiato qualcosina, boh, adesso ho detto boh, va, non faccio più altro, adesso mi rilasso un pochettino, poi fra un po' mi faccio la mia passeggiatina, così smalchiamo un attimino, e conclusa la giornata, va bene, comunque già, va bene quell'antenino, cioè nel suo piccolo va bene, anche diciamo che se lo stilo lungo è molto più, ha molta più resa logicamente sia in trasmissione che in ricezione, però anche il piccolo, diciamo, nel suo piccolo si difende. Sì, se avessi messo l'altra, quella che dice lui, andava ancora meglio, quella che ti ho indicato io, come si chiamava, la Sigma Minox, quella lì va più forte di quella lì, perché le ho provate io le due, e andava più forte la Minox, di due segnali quasi le vinceva, quindi era più leggera di quella e le vinceva due segnali da piazza del Sino, ma va bene anche quella lì, dai. Gianni, non è detto questo qua, a me bisogna vedere lo specchio anche di riflessione. Bella. Capito? Guarda che questa qua funziona, a macchine funziona bene. Ma Gianlu, forse perché tu ce l'hai vista dove l'ho messa io, forse perché a me mi aiuta, perché ho un bel piano, diciamo, di riflessione, e forse diciamo anche quella lì, perché io ho fatto la prova con la piccola, e poi ho messo lì lo stilo lungo, con la carica normale e così via dello stilo lungo, e c'ha due stintiche in più, capito? E bisogna vedere, magari il piano di riflessione aiuta, Se il piano di riflessione ce lo supererà il vuoto, ce l'ho al centro cappotto, l'antenna, voglio vedere. Qui è più lungo, anche lo stile, visto quanto è più grosso, l'acciaio. Insomma, è tutta un'altra lavorazione, dai, è un'altra antenna, stilo più lungo, no, lo stilo più grosso, la carica sarà differente, insomma tantissime cose, però insomma anche la piccola, diciamo, nel suo piccolo va benino, ma io purtroppo devo usare la piccola, la grande la devo dire, sono fuori per dire, capito? Ma la maggior parte devo usare la piccola, capito? E poi cominci, togli una, metti l'altra, ti rompo un po' le scatole. Se ti fermi in un posto, come generalmente sono io, cazzo, quella lì lascio fissa, ma non sai quanto ricezione c'è, sa? Sì, voglia, c'è molta più ricezione, questo sì, perché la piccola logicamente essendo ridotta la ricezione è più bella. Se quella là ha un 50% lo stilo lungo, lo stilo piccolo diciamo che ha un 20%, però insomma nel suo piccolo già va bene, dai, non è che si può pretendere chissà che cosa. Gianda, lei, Guglia. L'unica cosa già, allora adesso devo cercare un riduttore. Riduttore di tensione? No, adesso va, riduttore lì. Come si chiama quello per far girare la direttiva? Rotore di antenna. Esatto. Un rotore d'antenna, un buon permesso. Qui servono le antenne di casa. Dai, picca. Riduttore sull'antenna con direttiva. Giù, bussola. Col joystick che giri l'antenna. E dopo col monitor alla radio che ti fa vedere dove c'è più segnale, via e ti blocchi. Allora se non sbaglio ho visto, cioè con la direttiva della ZG mi sembra che sia, o della Sigma, che è piccolissima ed ha la struttura diciamo tipo quell'antenna da TV del primo. Guarda che non è chiama. No, se ricordo male mi sembra così, ti ricordi qualcosa? Già è così, già, non costa neanche 100 e passa euro, la giuvisca già, figurati se non la giuvisco. Metti un affare del genere sulla cappotta, ma voi come sarebbe meglio andare scomposte? Sembra che non la possiamo buttare per la direttiva. No, no, vabbè, io ho detto una stronzata. La direttiva logicamente non si può. No, fancuffia. La direttiva non si può usare assolutamente, capito? Non si può fare assolutamente. L'unica cosa che potresti fare per dire metterti un tubo di 4 metri e portartelo dietro, una bella mantova, trovare un punto per farti di ex. Batterie ce lo mancano. Tipo ricezione già si potrebbe usare. No, neanche ricezione. La direttiva assolutamente sulla 27 è assolutamente vietata. Peccato, ma già di parcheggio ci abbiamo già. No, non c'è problema, non c'è problema. Va bene. No, avrei voluto provare anche ho già la Magnum, quella che c'ho il mosso ancora nell'appunto, quella lì, perché ho visto che c'ha lo stilo, diciamo, molto flessibile, e poi ho un quarto d'acqua penso che renda bene. Capito che rende, poi non ti dice, vedrai, ma di questo a tocca, capito? È quello che c'è. Quello lì è il discorso mio, capito? Che sbatte da tutte le parti, che non lo posso mettere, adesso un'altra mattina stesso non l'ho tolto, non ho guardato, ma veramente per la fretta mi sono dimenticato. Sono passato in un punto, diciamo, sotto per la zona di scarico, carico e scarico, gas di tiriso, tra. C'era il tipo, tutto quanto, ferma, blocca tutto, guarda lì, casino. Senti, che casino ha fatto, capito? Senti, fa un'unità longa? Ehi, il mattino lo provare, avevo messo la lunga, tra una cosa e l'altra, poi mi sono dimenticato. Sono arrivato lì a Sassari, in un punto, sono passato sotto dove con la piccola passo tranquillamente, perché la piccola lei non la lascio dritta, la inclino un attimino e quindi ci passo tranquillamente, invece con la lunga logicamente va a toccare. Allora con la piccola manco la tocco, non tocca da nessuna parte. Giusto per quello, già, la piccola è comodissima, anche per dire, come segnale nel suo piccolo va bene, dai, già va bene, se non arrivi per dire due spiaghi in più, l'importante è la radio, poi per il resto va bene, bene. Sì, quello è vero, uno se si accontenta, io per dire se devo fare di ex, roba così, mi fermo, faccio quello che devo fare, poi la cambio l'antenna e ci metto la grande, poi la tolgo e rimetto la piccola, capito? Ma diciamo che va molto bene anche la piccola, solo se ti trovi magari in mezzo ai palazzi rende di meno dell'altra, l'altra riesce a passare da tutte le parti, l'altra è a livello di una mattofa a casa, non è. Io sono arrivato in posti allucinanti, 9, 10 eccetera eccetera con quell'antenna. E dipende anche dove ti trovi il punto, ma l'antenna spara bene. Sì, bella grande, lo stilo lungo, la grande lavora molto meglio, sia in ricezione che in trasmissione va benissimo, e logicamente la piccola nel suo piccolo fa quello che può, però insomma, già va bene, forse mi aiuta un attimino in più, forse per il discorso del piano di rifugiazione. Forse magari anche un po' quello lì, capito? No, ma la lunga per dire l'ho già provata per dire Sassari Olbia, tra GT lunghi allora va bene, posso mettere quella lì e va bene. Ma lo stesso attacco va bene, no? Così così quando la provo io, non so mettere in termini. Ah, in casa pare. È vero. come la manto, poi io la paragono alla manto, una volta ho fatto la prova, arrivavo lo stesso segnale che arrivavo con la manto, vado a casa e arrivavo con quella. Con tutto che io ero giù, non ero sul tetto. Ehi, va bene, vado. Ma oggi la dimmi una cosa, ma perché siccome io arrivo lì all'inizio, che lì all'inizio di via Baldetta c'è un punto lì, proprio all'angolo, non so se l'hai visto lì, all'angolo cosa c'è di via Baldetta, giù in fondo ho visto un palazzo dove ci sono antenne, e lì sì. Allora, quello lì è un'altra persona, è un radioamatore che qualche volta entra anche qua, no. Io sono molto più in fondo e la via parallela a via Baldetta, non sono proprio in via Baldetta, ma sono in via Molis. Ho capito, infatti mi è capitato quando passo lì, diciamo, così via, che lì c'è un punto, e infatti ho detto, ma non è che c'è Gianni lì, no, però dopo ho visto doppie antenne, mi sembra che ci sia qualche di buono, qualcosa del genere, infatti ho detto, ma sono un po' d'assi, e qualche, ci sarà una decina di antenne. Sì, io adesso ho detto qualche antenna, ma ho visto che c'è un terrazzo lì che non finisce mai, che se chi è un pazzo, sopra di lì puoi mettere tutto quello che vuoi. E tu pensa che quella persona è andata anche oltre il tetto suo, quindi immaginati tu lo spazio che c'è, con i dipoli dovuto andare dall'altra parte. Ah, lo puoi fare tranquillamente, tanto che ci va sul tetto a controllare. Beh, avendo un tetto del genere, un terrazzo del genere, è micidiale, reale. Vabbò, signori, io vi lascio, vado a portare mister a farmi una passeggiatina, così cominciamo a smaltire un pochettino. Dai, ce la risentiamo alle prossime. Ciao Gianluca. Ciao, buona passeggiata. Io addirittura sono molto più in alto di me. Sono più in alto a livello di Porto Torre, sono più vicino, dai. Avanti Gianluca. Ciao Sandro, alle prossime, dai. Ok. Avanti Gianni, doppio rumore. Come qua. Hai capito? Lì sì, è un buon punto lo stesso, c'è anche delle buone antenne, l'amico, va? Io sono più in alto rispetto a lui. Lui rimane ai piedi del monte, io sono proprio alla cima, insieme a Leoncino. Leoncino è uguale, anzi Leoncino è più avanti di me, però risulta più in basso, come più vicino a Porto Torres, ma più in basso di me. Invece sono più in alto di Leoncino. Ho capito. Più o meno siamo lì, molto vicino a me Leoncino. Quindi Gianlu, proviamo a vedere se c'è qualcuno là. È strano che non sia entrato nessuno. Dici, prova, aspetta un attimo, prova a vedere se c'è nessuno. Verrà giù, non c'è nessuno. Ma te c'è due antenne così, una non è un'antenna ma l'altra. Eia. Poi te lo usi come ricezione, dai. Faccio capire. Andare. E io come sto uscendo sempre bene? Sempre bene, già. Ghiaccia un attimino. Ah, dai, da. Sempre no, che abbondante. E chi c'è tirchio, E così qua. Se no la sei 9:10, ma sei molto di più. E com'è la radio? Per 5. Pagato. Io va bene, allora va. Andare. Adesso bisogna accendere tutte le luci, tutte le cose, tutto illuminato, quanto è bella. Tutte le luci blu accese. Ho messo due faretti orientabili, piccolini, attaccati all'apparato, al Galaxy. E sono puntati verso le manopole, verso gli strumenti. Come tu accendi, si accendono quelle luci giù e illuminano l'apparecchio di blu. Poi c'ho la plafoniera tutta piena di luci blu. Praticamente sono delle piccole plafoniere che ho trovato dai cinesi. Sono plafoniere piccolissime, adesive, si attaccano al cielo, diciamo, del mobile e illuminano tutto l'apparato. Ho fatto tutto il mondo. Luci da riposo. Belle sono. Dove mi giallo? Sono molto comode perché sono in fila, no? È tipo quelle di Natale, però sono a plafoniera, sono plafoniere piccoline che te le posizioni dove vuoi e ti illumina tutto quanto. E in più c'ho questi faretti che ti illuminano proprio l'apparecchio. Poi l'altro già è blu di per sé, quindi non c'è bisogno di illuminarlo. A me il blu è un colore che impazzisco più il blu. Non hai un colore particolare che ti piace? Questo blu mi piace a me, o quel verde soft. È blu, da riposo, proprio da, mi rilassa da quel colore. Per dire ci sono dei colori che odio, sono il marrone, anche per la roba da vestire non metto mai roba marrone. Non mi piace né il marrone né il verdone. Mamma mia che colori fai, è del bordeaux. No, questi tre colori non mi piacciono per niente. Mentre invece uso molto il blu, il bianco, il celeste, il bianco e il blu li uso moltissimo, mi piacciono molto, anche il nero uso, però quei colori lì, marrone proprio, non me li va più da, mia moglie mi dice guarda che bellino, no è marrone, non lo voglio manco vedere. Bisogna vedere dove lo metti, capito? Come vestiario parlo, eh? No, io tutto non mi piace come colore, ecco. Vabbè, questo è di gusti, non è che... Non proprio... Qua può andare bene il marroncino su un paio di scarpe di camoscio, per dire. Quello sì. Ma sul vestiario proprio no. Vabbè, una questione di gusti, Bisogna vedere già comunque, non è che ne vado matto io, però secondo te cos'hai mi piace? Un botto in pelle lo prenderei per dire nero, ma non mai marrone. Ne ho visto certi marrone che fanno proprio cagare. Guarda, te ne faccio vedere un paio un giorno, l'inverno, se li indosso, marroni con le tasche, le cernie, tipo proprio un botto in pelle, quel marrone che dopo sembra tipo scamosciato però. Ho capito, vabbè, io te l'ho detto, preferisco il nero, il blu, il bianco, quello sì, mi piace molto il blu comunque come colore, lo preferisco a tutti. Blu, il bianco, il nero, il verde, intende, oui. Ma Gianlu, al computer? No, stavo saldando questo coso, Gianni. Stavo vulcanizzando qua con la guaina termorestringente. Io ho fatto il cavetto nuovo più grosso, capito? Dove ho saldato da dentro la fila, dove c'è la basetta. E io ho fatto un altro cavo con lo stesso spinotto. Per essere più resistente. Sì, perché quelli lì sono un pochettino esili già, sono sottili. Allora mi timo, vedo che c'è una regione più grosso, sia all'ingresso che in uscita. Fatto bene. Perché poi a volte si surriscaldano, si scioglie. E allora? Non so più dimmi di su io. A me una volta me l'ha fatta in macchina. Cazzo, sentivo una puzza di bruciato, mi sono dovuto fermare. Ma non con la mia, no, con la panda. Con la panda di mia moglie. Se l'ho messo i fili per l'alimentazione, avevo fatto un attacco così veloce. Non avevo messo quelli. Ma se ne era bruciato uno. Dove se toccava, come toccava, non toccava la carrozzeria. Un fumo, cazzo, era tutto bruciato, non faceva manco a toccare in mano. Si è fatto visto, però mi sa non male la sera, no? Allora ho oggi sono andato, me l'ha cambiato, però oggi ho detto no, qui su diciamo tutti i ricavi, forse una giambi dura, però va, prego 10 minuti in più e lo posso mettere di due. Io avevi che a casa era ricavato, eh? Avevi a casa, l'avevo qua quello suo originale, per non portarmi quello sempre suo originale, no? Trasformatore, e quello sulla stazione fissa. Allora cosa ho fatto? Ho preso un altro caricabatterie di questi qua, solo che sono quello che sono, perché non ne ho trovato da quei negozi di computer, non ce l'avevano dello stesso amperaggio, diciamo così, perché questi quando sono a 19 volts alimentano il portatile, non parlo del computer, però veramente hanno 3, 6 ampere o 7, se non mi ricordo bene. Per esempio questo qua, aspetta che guardo la scatola, questo qui se lo fai andare dai 9 ai 15 volts ti dà 10 ampere di tenuta, se lo tieni dai 12, 15, 16, 18 5,5 ampere ti assorbe, oppure dai 24 o 4 ampere. No, aspetta, sto sbagliando tutto. Allora, se lo tieni a 19, 20, 22 fino a 24 ti assorbe 4 ampere. Dopo auto, cosa? 5 ampere c'ha questo qua, là. Tutta che dura, ma si figura. Vabbè. Sono cose, diciamo, ma sai dove li trovi? E tu vai a Città Mercato, su da, come si chiama, da Media World, vai su, dove ci sono i computer li trovi, e trovi quelli buoni, quelli che costano magari 32 euro, però sono di quelli proprio buoni, non sono di quelli adattati. Infatti me l'ha detto anche, me l'ha consigliato anche questo mio amico, ma lui mi ha tassato, sarebbe aereo, adesso si capiteggia lo biglio già, si capita che vai lì, fallisci per questa cosa qui, mi rompeva le scatole, non tanto per il coso, ma il tempo che ti porta, capite? No, ma adesso con questi accorgimenti dovrebbe, quell'altro già ha durato non so quanto ha durato, e non avevo mai fatto questo lavoro qua, ti sto facendo questo, figurati. Adesso questo qua già dovrebbe tenere un pochettino. E sta giusto, avevi una ventunina, ma non me la ciappero, o l'avrò conservata o non so dove è andata a finire. Se volevo fare dei buchi nella carcassa e installarla. Per raffreddare il video, dare una ventola al computer, tanto costa su 10 euro nuova, almeno ho tenuto il problema. No, ma mira io, viaggio pure più mani minori. No, me la metto in viaggio butta, però. Ho fatto così, la buttavo verso fuori l'aria calda. fresca la mette dentro. Chi è che chiama? Chi è?